Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio. Il nostro sito radio24.it, potrete scaricare, ormai lo sapete a memoria, come un disco incantato, però è giusto e doveroso che lo dica. Potete scaricare tutte le puntate di qualunque trasmissione. Potete dialogare con me, come? Consultando il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate su Radio 24 sotto il mio profilo oppure sull'home page del Sole 24 Ore. Seconda informazione, la nostra mail, questa vi interesserà sicuramente di più: un abuso al giorno @radio24.it. Quante volte mi avrete sentito dire che non amo i casi che riguardano le singole persone, che quindi coinvolgono soltanto chi le scrive? Tante volte, perché non ha senso, insomma, massimo rispetto, ma francamente non ha senso affrontarli. Allora, non amo nemmeno tantissimo, devo dire, purtroppo, le tantissime lettere che arrivano dai nostri radioascoltatori che si lamentano nei confronti di chi eroga un servizio, quindi sia l'Enel, sia l'Eni Gas, sia le banche, siano diciamo così tutti gli erogatori di servizi pubblici o comunque che hanno la possibilità di erogare dei servizi. Perché? Perché purtroppo tra telefonia, gas, luce, acqua, le proteste sono veramente un tourbillon, ce ne abbiamo da buttare via. Di tanto in tanto però ne prendo qualcuno, perché è doveroso, è giusto anche che faccia così. Perché? Perché obiettivamente rappresentano una quota parte enorme di quelle che sono gli abusi lamentati dai nostri radioascoltatori, dai cittadini. Allora, quindi abbiamo preso un caso, seppur nell'ambito dei servizi, un caso interessante. Perché interessante? Perché si parla moltissimo di energie rinnovabili, di incentivi alle energie rinnovabili, di campagna pubblicitaria, di informazioni sulle energie rinnovabili. Ecco che quando qualcuno ci prova, insomma, qualche difficoltà sorge. È sorta ad esempio al nostro radioascoltatore di Abano Terme, Marco Albertin. Buongiorno Albertin. Buongiorno dottor Galullo, a lei e agli ascoltatori. Che si trova in difficoltà per rimborsi da fotovoltaico con Enel Energia. Ed allora noi, per avere come sempre parte controparte, abbiamo chiamato chi è stato già nostro ospite, non si negano mai, e di questo ovviamente lo ringrazio, Fosco Bellotto, che è responsabile del rapporti di soddisfazione dei clienti per Energia. Buongiorno Bellotto. Buongiorno a lei. Allora Albertin, partiamo da quella che è la sua storia. Sì, praticamente io ero cliente Enel Energia e ho deciso di installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa. Sì. Spinto dagli incentivi, spinto dal desiderio di fare qualcosa per l'ambiente e anche per il portafoglio, insomma, perché una bella quota che ti viene rimborsata da un ente che si chiama GSE. Certo. Allora installo l'impianto, faccio tutto tranquillamente, funziona tutto bene. A un certo punto però mi accorgo che Enel Energia neanche rileva il fatto che io ho l'impianto fotovoltaico e quindi non mi scala la parte che io non consumo più da Enel Energia, ma che consumo da solo, perché me la produco e me la consumo. Certamente, da solo. Cioè lei produce una quota parte di energia, giustamente dice, perché l'Enel non me l'ha scaricata avendo io installato un impianto fotovoltaico? Esatto. Benissimo. Allora comincio a scrivere all'Enel diverse lettere, quasi tutte senza risposta, anche il call center non reagisce, non mi dà nessuna soddisfazione in questo senso. Allora a un certo punto decido di disdire il contratto con Enel Energia e tornare con Enel Servizio Elettrico, che è il gestore obbligatorio per l'energia. Certo. Purtroppo però è rimasto uno strascico con Enel che si protrae da 2 anni. Addirittura? Sì, da 2 anni, nel senso che io ho una parte dell'energia, la produco e la consumo, ma una parte non riesco a consumarla e quindi la immetto in rete attraverso il contatore, viene conteggiata ed Enel Energia avrebbe dovuto rimborsarmi questa energia che io gli ho praticamente venduto. Certamente, ecco, quale sarebbe la cifra di questo rimborso? Non sono riuscito riuscito a calcolarlo esattamente, ma presumo che sia fra i 100 e i 200 euro. Benissimo, allora qui già secondo me c'è una storia abbastanza, su cui vorrò sentire poi Bellotto, una storia abbastanza strana, no? Cioè, invece di fare di tutto per tenersi un cliente, uno poi alla fine il cliente lo perde. Detto questo, però, c'è anche un innesco familiare, cioè lei nel frattempo si accorge che a suo fratello che cosa accade invece? Io e mio fratello abbiamo fatto l'impianto fotovoltaico insieme. Okay. Solo che lui non è cliente Enel Energia, ma è cliente di Enel Servizio Elettrico. Okay. A lui invece le bollette cominciano a diminuire regolarmente e in più riceve immediatamente i rimborsi per l'energia prodotta e non consumata e quindi venduta all'Enel. Prodotta con l'impianto fotovoltaico. Esatto. Perché l'impianto fotovoltaico c'è sempre. Enel è sempre la casa madre, ma uno è il servizio elettrico e l'altro è l'energia. Proprio così. Esattamente. Suo fratello, che voglio dire, ha seguito una strada più spianata, va tutto bene. Lei, che invece ha fatto avanti e indietro tra un gestore e l'altro, ha avuto un problema dietro l'altro, una marea di guai. Allora, Bellotto, come possiamo descrivere questa situazione? Prego, a lei la parola. Volevo fare una premessa. Prego. Perché il tipo di contratto che viene fatto per dei produttori, perché il signor Marco Albertin è un produttore di energia elettrica, in questo caso si chiamano contratti di scambio sul posto, e quindi la differenza dell'energia tra la prodotta e la consumata viene messa in rete. Sì. Gli attori che ne vengono considerati non è solo il venditore e il produttore, anche perché l'energia purtroppo non possiamo immagazzinarla e venderla, ma ci sono più soggetti che di mezzo, c'è il produttore, il trasportatore, il distributore e il venditore, quindi ci sono più soggetti che si mettono d'accordo per l'energia prodotta. È vero che il signor Marco Albertini ha fatto un impianto fotovoltaico e con noi un contratto da febbraio 2008, e con noi è stato in carico fino ad agosto, circa 6 mesi, e nello stesso tempo aveva anche il fratello in gestione servizio elettrico. Io le posso garantire che rappresento un po' tutte e due le società. Sì. E provengo da quella società, che le regole sono le stesse. Intanto avete perso un cliente, o quantomeno sì, è rimasto in casa, però se è andato d'energia è andato al settore elettrico, e questo per disperazione, non per scelta, no? Quindi questo sì. Qui è anche una domanda che forse attende una risposta. E comunque il rimborso alla fine, fatti tutti i passaggi, il trenino del distributore e insomma di tutti, l'erogatore, che in Italia non mancano mai, la catena, la filiera si allunga a dismisura, ecco, fatta tutta questa tara sulla lunghissima catena, il rimborso è dovuto o no? Il rimborso è dovuto. Io volevo solo spiegare quello che era successo, e la prossima settimana arriverà il signor Albertin, Marco Albertini. Okay. Noi abbiamo avuto un problema perché ci sono più soggetti, del mercato libero ne abbiamo già parlato. Certo. E essendoci più soggetti abbiamo trovato un'incongruenza tra le fatture che ci venivano date e le letture, quindi abbiamo voluto fare delle verifiche e avevamo bloccato la fatturazione che doveva essere emessa a marzo 2009. Quindi comunque il rimborso arriva, mentre invece adesso lei sta spostando la sua attenzione, come dire, nel fatto che nel frattempo però il cliente è stato perso. Il cliente purtroppo è stato perso perché ancora la gestione non era matura in quel periodo. Sì. La gestione dei piccoli produttori, tant'è okay. Che poi dal primo di gennaio 2009 è entrata anche il GSE, che regola un po' i rapporti fra i piccoli produttori. Benissimo, benissimo. Allora, una cosa, c'è un sito, c'è un qualcosa dove magari voi siete anche in grado di dare qualche notizia in più, in maniera tale che chi vuole fare il passaggio o vuole tornare indietro o voglia mettere un impianto fotovoltaico riesca ad avere qualche, come dire, qualche informazione utile? Diciamo che nel nostro sito noi abbiamo tutte le informazioni. Adesso non volevo cogliere l'occasione per fare pubblicità, ma abbiamo Non è pubblicità. Abbiamo una nostra società che supporta anche l'installazione degli piccoli impianti fotovoltaici e altri, supporta i clienti sia nella fase di realizzazione che di contrattualizzazione nei confronti anche di altri va bene. No, ma io le chiedevo se c'era un sito proprio per avere delle informazioni, perché comunque sia il sito è a disposizione di tutti, e comunque l'ultimo scopo di questa trasmissione è proprio quello di fare pubblicità. Allora, io ringrazio Bellotto per le sue risposte, ringrazio il nostro radioascoltatore che avrà quantomeno, diciamo così, fatto salvo il suo diritto al rimborso. grazie, regia Pietro Lacorti, in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.